Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La nostra voce in scena di oggi è quella di un cantautore e attore italiano. È nato a Bologna nel 1980, il debutto discografico nel 1999 con il suo gruppo Il Luna Pop. Il singolo d'esordio 50 Special è disco di platino con oltre 100.000 copie vendute in soli 3 mesi. Il primo album è un trionfo. Ma dopo 2 anni di successi il gruppo si spacca. Nel 2002 pubblica il suo primo album da solista che vende più di 250.000 copie. Nel frattempo inizia a cimentarsi nel ruolo di attore nel film Un amore perfetto, che però si rivela un clamoroso flop. Il successo al cinema arriverà con Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati. A oggi da solo ha pubblicato 4 album. L'ultimo, appena uscito, La teoria dei colori. Lui è Cesare Cremonini. Arrivati al Best 2 anni fa, guardandoci indietro per la prima volta, poi ci siamo trovati a scoprire che avevamo fatto dischi che nel corso di quel decennio appartenevano a una policromia di emozioni e anche di stili. Non ci siamo mai adagiati su noi stessi, su quello che avevamo fatto. Erano tanti generi musicali che avevamo affrontato, erano tante le argomentazioni e gli punti di vista, gli angoli di prospettiva che io avevo analizzato. E quindi quando siamo ripartiti con un nuovo disco abbiamo rifiutato l'idea di diventare monocromatici, anzi abbiamo teorizzato questa nostra caratteristica, l'abbiamo voluta marchiare a fuoco proprio sulla copertina dell'album, facendo sì che diventasse una virtù dei nostri album, una caratteristica precisa, la varietà di sonorità, la varietà di spunti creativi e quindi anche di conseguenza a volte la varietà di emozioni raccontate. Persino la mia voce nel corso degli anni è sempre cambiata, no? Cioè, non si può dire che siamo rimasti uguali a noi stessi, e la monocromia nella musica secondo me tende a spegnere, forse da sicurezza magari, ma tende a spegnere la creatività e tende a spegnere gli stimoli necessari per andare avanti con grande, grande forza, grande voglia di fare. E così questo disco è un disco che nasce positivo, nasce creativo e nasce ipercolorato e cerca un'altra volta di dare una lettura di me variopinta e non cercando una definizione unica. Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile, tu nemmeno te ne accorgi, come un fesso vorrei farti innamorare. Non andare, se puoi rimani fino a domani qui, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, un principe immortale, non so dirti una parola, non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare. Lancio in un'aiuola, casco e non mi faccio. E l'occhio ride ma ti piange il cuore. Il rapporto con il mondo non è sempre facile, come dici nel comico, perché il mondo ride se mi piange il cuore è una frase importante. Beh, è una frase che testimonia quello che sto dicendo, nel senso che è una reazione la ricerca del sorriso, è una reazione profonda però, ecco. Ci sono 2 modi di ridere, c'è un modo superficiale molto sguaiato, che è un modo che non ha nulla, è un modo di ridere che non ha nulla da lasciarci dentro, e c'è un modo invece di ridere come reazione. Praticare l'allegria è una reazione a quello che c'è intorno a noi, e vuol dire esserne coscienti anche. Comunque è un disco di reazione, comunque, questo sicuramente, cioè è un disco che reagisce a quello che si vive, non ha l'ambizione di per forza di cose raccontare quello che vedi, ma ha una grande voglia di reagire a quello che tu incontri, che sono 2 modi diversi di interpretare comunque la realtà e di attraversarla. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York. amore, chiamami e ti vestirò come una stella di. C'è una cura estrema negli arrangiamenti in questo disco. Quanto tu sei attento ai particolari, al controllo delle cose, quanto fa parte del tuo carattere questo? Quando io scrivo una canzone vorrei che potesse vivere chitarra e voce e piano e voce per sempre, nel senso che poi mi capita proprio di, con amici o con una ragazza, insomma, con qualcuno a cui mi piace mostrare quello che almeno io so fare, poi dopo mi piace l'idea di poter cantare una canzone in maniera molto semplice, però nei dischi cerco il limite di ogni canzone, cerco di arrivare dove posso, fino al limite del burrone oltre il quale la canzone crolla e non può più stare in piedi. Allora lì vuol dire che sono andato oltre, e quello è il limite che cerco nei dischi. A volte ci riesco, a volte non ci riesco, a volte mi viene benissimo, a volte un po' meno, però cerco questo tipo di perfezionismo, per cui il mio computer a casa, la mia scrivania anche, e il mio comodino del letto soprattutto, è pieno di tentativi di arrivare a questo limite, sia nella scrittura che nell'arrangiamento. E il mio perfezionismo in questo senso è totale, fino all'ossessione, anzi è sicuramente un'ossessione, ma almeno un'ossessione positiva, costruttiva, non distruttiva. L'uomo che viaggia fra le stelle ha camminato sulla luna, giù l'amore poi si pente, chiede ai maghi la fortuna, fa collezione di conquiste, conosce il peso di una più. Un pescatore di conchiglie, poi gratta e perde la fortuna. Ma dell'amore non sa niente di me, che tremavo di paura. Allora aprivo le finestre per vedere cosa c'era. Abati è una persona, che un regista che ti insegna in maniera molto semplice, senza appuntamenti tipo lezioni alle 8 di mattina, no? Proprio in una maniera molto comunicativa, molto umana, ti insegna strada facendo, portandoti dentro al film, a non urlare, a non gesticolare troppo durante la recitazione, a non diventare macchietta. E questo ti dà una forza comunicativa nell'utilizzo della voce che diventa centrale, cioè è il tono di voce che conta, non quanto tu rendi esplicito quello che già sta accadendo, che già c'è, non serve aumentarne la dose di comunicazione. E secondo me in questo disco si avverte comunque una consapevolezza vocale che fa sì che alcuni timbri vocali, come il timbro più profondo, vengano esplorati di più da parte mia. Questa è la storia di quando le ragazze aspettavano il biancospino per andarsi a sposare. Ma c'è il fiato che c'è? È biancospino, naturale. Pure meglio. Quelle spose, quel giorno, avevano tutto un cuore grande. Perché devo conciarmi così per andare a fare la corte a due cessi? Sei mai stato seduto tra due ragazze? Al catechismo. Hai sentito? Biancospino, naturale. Ah, Ani, questo è il fidanzato delle sorelle tue. Di tutte e due? Hai conosciuto la nostra sorellina romana? Sì. Ti piace? Molto. Dov'è quel pezzo di merda? Sparisci, vai via! Ma fai, senti ancora. Cosa ti devo dire? Parla ancora, parla. Se viene fuori che va ancora donna, salta tutto. Allora bisogna fare presto. Prima si sposano, meglio. Ma te hai capito cosa vuol dire sposarsi? Sì. Ti vado bene come moglie? Per forza, se ci sposiamo. Che vuol dire per forza? Allora! Cosa succede? Il prete ha chiuso la chiesa. Come non c'è il prete? Sarà mica che non mi sposo, io oggi devo assolutamente fare l'amore. Visto che abbiamo parlato di Avati, c'è anche un incrocio, un incontro con Dalatri, e anche lui è un personaggio a suo modo straordinario. Gabriellini, cioè, diciamo che questo è un film, questo disco è un disco che ha del cinema dentro, perché comunque Amor mio è una canzone che ho scritto per Edoardo Gabriellini, cantata poi da Gianni Morandi nel film di Gabriellini con Mastandrea e Germano. Tante belle cose è la colonna sonora di un bellissimo spettacolo di Dalatri che si chiama Tante belle cose, che parla della solitudine che si aggrappa alle cose, agli oggetti che possediamo nelle nostre vite, ai collezionatori di oggetti, no? Che vai a casa di uno, trovi una lampadina rotta, gliela vuoi togliere da casa, ma gli si aggrappa per non farla portare via, no? Questa forma nuova di solitudine un po' patologica che abbiamo forse un po' tutti nel accumulare oggetti. Quindi questo è un disco che ha comunque dentro va per mano con visioni cinematografiche e sono grato comunque a queste forme di ispirazione, perché mi hanno fatto toccare un mondo che io non avevo ancora sfiorato. E questo, come ti dicevo, è un disco di nascita, cioè è un disco che è attento alle cose che stanno nascendo. C'è una canzone nel disco che dice: non c'è una forma di felicità migliore di quella di quando si vede nascere una dea, cioè di quando si vede nascere una stella del cinema, della musica, di quando si vede nascere un bambino, di quando si vede nascere una canzone. Sono le forme di felicità che preferisco. Adoro, adoro, adoro i tuoi grovigli, li conto ad uno e penso in questo mi somigli. Non farti mai cambiare dalle cose, tu non ne sei capace. Quando il mondo compra rose, sei sola. Il cuore va ai 200 all'ora, si perde per sempre qualcosa quando ci si innamora. Quando ci si innamora, quando ci si innamora. E per l'appuntamento con Voci in Scena di oggi è tutto. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.